Letture di Radio 24. Lidio Cerevelli, protagonista dell'ultimo romanzo di Andrea Vitali, è il più giovane membro del Circolo della Vela di Bellano, cittadina affacciata sul lago di Como. Una sera di luglio del 1930, durante la festa del circolo, arriva un gruppo di turisti svizzeri. Tra di loro c'è la prorompente Helga, che conquista subito il giovane Lidio. Ma quando gli chiede se può passare la notte a casa sua, scopre che c'è un grosso problema. Lui vive ancora con la mamma. Leone Cerevelli, padre di Lidio e fondatore dell'omonima impresa edile, era morto nel 1920, cadendo da un'impalcatura. All'epoca il ragazzo aveva 18 anni ed era impegnato con la maturità classica, cui era giunto dopo ben 17 esami di riparazione. Un record anche per il severissimo liceo Manzoni di Lecco. Nonostante ciò, Leone non aveva mai voluto rinunciare all'idea di un figlio ingegnere che desse lustro all'impresa e aveva sborsato fior di quattrini in ripetizioni private. La sua repentina scomparsa aveva consentito al figlio di superare agevolmente la maturità. La commissione d'esame l'aveva giudicato con clemenza, tenendo conto della luttuosa circostanza, e l'aveva promosso con una risicata sufficienza. In condizioni normali, il Cerevelli sarebbe stato il primo dei bocciati. L'impresa aveva mantenuto nome e cognome del fondatore, ma era passata nelle mani della fresca vedova, la signora Lirica Benfatti. Al momento della morte di Leone, Lirica aveva 52 anni e non s'era mai impicciata di affari. Le era toccato farlo, chiamando a raccolta caparbietà e intelligenza, doti che non le facevano difetto, e Lidio s'era trovato a fare i conti con un genitore ancora più duro e determinato del padre. Se si era illuso di poter fare la vita del giovane signore, aveva dovuto disilludersi in fretta. Sua madre non gli aveva lasciato scampo. S'era detta d'accordo con lui circa l'inutilità di proseguire gli studi. Anche a marito vivo non era mai stata dell'idea, pur se non aveva mai voluto contrastare la volontà del consorte. Adesso però le cose erano cambiate. A Lidio necessitava un lavoro. Poteva quindi fare di testa sua, oppure accettare quello che lei gli offriva, quale titolare e padrona a tutti gli effetti dell'impresa. Al giovanotto erano cascate le braccia. La madre non s'era lasciata impietosire. Si rendeva conto della fortuna che aveva? Aveva chiesto al figlio. Gli avrebbe dato uno stipendio mentre lui frequentava capimastro e cantieri per imparare i trucchi del mestiere. Così si sarebbe preparato. Meglio che all'università, a gestire con criterio l'impresa che sarebbe stata sua al momento giusto. «Quando?» aveva chiesto il giovanotto. «Quando lo dirò io», era stata la risposta della donna. Gli aveva concesso uno stipendio che corrispondeva a quello di un operaio, 200 lire, e gli aveva consigliato di spacciarsi per geometra. I muratori non avrebbero fatto differenza tra un diploma o l'altro, ma presentarsi in cantiere vantando una maturità classica non le sembrava un esordio tra i più felici nel mondo dell'edilizia. Avvicinandosi alla maggiore età, Lidio s'era fatto l'idea che quel traguardo avrebbe coinciso col suo ingresso da padrone, con titolare, nell'impresa. Così, la sera del 23 marzo 1923, quando sua madre gli aveva detto di avere in serbo per lui una sorpresa, rivelandogli poi che consisteva in un aumento dello stipendio, da 200 lire passava a 270, equivalenti a quelle di un impiegato, Lidio non aveva nemmeno avuto la forza di protestare. Sua madre, aveva compreso, si era innamorata di quel lavoro e non avrebbe mollato la presa facilmente. Dal giorno seguente, però, aveva cominciato ad avviare discorsi, avanzare richieste di sempre maggiore indipendenza. Ma ogni volta che il giovanotto se ne usciva con qualche pretesa, sua madre ribatteva dicendo di non ritenerlo ancora pronto per fare il padrone e concludeva il discorso con una frase che si era stampata nella mente di Lidio: «Ricordati che il titolare sono io». Al che Lidio non poteva fare a meno di immaginare come avrebbe potuto essere la situazione se allora, 10 anni prima, fosse stata sua madre anziché il povero Leone a cadere malamente da un ponteggio. Non era proprio il caso di portarsi a casa la prorompente Helga. Sua madre ne avrebbe fatto uno scandalo e a pagarne le conseguenze sarebbe stato solo lui. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Andrea Vitali, Galeotto Folcolier, Garzanti Editore, 364 pagine, 17,60 €. Da divorzio a compleanno, da povertà a schiavitù. Negli Stati Uniti, il Dipartimento per l'Istruzione elenca le parole che non si possono usare nei test scolastici, in quanto considerate politicamente scorrette. Vietata la parola dinosauro, che pure ai bambini piaceva tanto dai tempi dei cartoon degli antenati. Il vecchio dino rimanda all'idea di evoluzione. Parlare di evoluzione fa infuriare i creazionisti, e quindi non si può, tanto più adesso che uno di loro, Rick Santorum, punta alla Casa Bianca. Vietata anche la parola dancing, troppo sexy e licenziosa. Meglio non far balenare per la testa certe idee. È vietata perfino quella parola terribile, compleanno. I testimoni di Geova non lo festeggiano, vorrete mica urtare la sensibilità di qualche piccolo devoto. Benvenuti nella classe più politicamente corretta del mondo, dove la preoccupazione di non offendere nessuno sfiora, anzi decisamente sfora, i confini del ridicolo. Anche perché qui siamo a New York e le direttive sui nuovi test rischiano di gettare ulteriore discredito su una struttura scolastica già sconvolta dall'impreparazione degli insegnanti e dalle polemiche sul licenziamento. La lista delle parole bandite è l'ultima follia. Anche perché, si chiedono gli esperti, se togliamo di mezzo le parole più controverse, come faremo a testare la capacità d'apprendimento dei nostri ragazzi? Non si può usare la parola povertà, perché rischia di mettere in imbarazzo l'alunno, che si ritrova il papà disoccupato, condizione purtroppo comune all'8,3% degli americani. Non si può usare la parola divorzio, perché i piccini potrebbero rivivere uno shock familiare. Non si può usare tantomeno la parola schiavitù, perché rischia di urtare la sensibilità dei piccoli afroamericani. E non c'è posto neppure per il povero E.T. La parola extraterrestre turberebbe la fantasia dei più sensibili. Cose, appunto, dell'altro mondo. Eppure le direttive sono nero su bianco nella lettera che il Dipartimento per l'Istruzione ha spedito agli editori dei test svolti diverse volte all'anno per valutare i progressi e i regressi dei giovanissimi studenti delle elementari. In inglese, matematica, scienze e studi sociali. Il motivo? Quelli del Dipartimento per la Verità frenano. Questo è il tipo di linguaggio standard che viene usato dagli editori da diversi anni per permettere ai nostri ragazzi di completare il test senza distrazioni. Distrazioni. Secondo il New York Post, che ha sollevato il caso, con ben 50 parole bandite, la lista della Grande Mela è però lunga più del doppio di quelle usate negli altri stati. Per carità, che il politicamente corretto sia diventato un'ossessione di questa civiltà basata su un incredibile miscuglio di etnie e culture non è certo cosa nuova. Proprio qui, e proprio negli anni 70 delle lotte per i diritti civili, è nata l'espressione «politically correct», che negli anni 90, sempre qui, ha poi dato origine a quell'opposto estremismo che va sotto il nome di «politicamente scorretto». Da allora la guerra culturale tra destra e sinistra ha invaso il mondo. E anche da noi, si sa, gli spazzini sono diventati operatori ecologici e i ciechi, che pure inalberano una benemerita Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sono diventati appunto non vedenti. Ma perché adesso devono essere i bambini a pagare per l'imbarazzo linguistico dei grandi? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Angelo Acquaro, Le 50 parole vietate ai minori nelle scuole USA del Politically Correct, dalla Repubblica del 27 marzo.